Mi raccomando, vi vedo un po' sottotono. No, ma per mia impressione, vi siete diventati buoni, ma sì, l'atmosfera nuova, se il Papa Francesco, siete diventati tutti buoni. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma c'è chi è incorreggibile, allergico a tutte le prediche, Pinocchio di tutte le favole. Bene, allora, in assenza dei protagonisti che hanno preferito declinare l'invito, due considerazioni. La prima: il movimento è esploso in pochi mesi, nel disordine pretendere subito ordine nei conti comprendiamo che è complesso, ma attendiamo quanto prima la pubblicazione delle fatture promesse. L'aus organ del movimento, di fatto, è il blog La Voce Politica. Passa da lì i proventi. Vanno anche al movimento oppure no? Domanda semplice, trasparenza esige risposta, anche se la legge non vi obbliga. Sono bastate due semplici domande, caro Parenzo, a Beppe Grillo e a Casaleggio, che hanno risposto in parte sì, in parte no, per scatenare l'orda dei grillini contro la Gabanelli, ex idolo, candidata per un certo periodo, per qualche giorno al Quirinale. Al Quirinale. Ti ricordi? Ti ricordo. Ma c'è chi è incorreggibile. Però vabbè, insomma, a noi non ci importa di queste cose, no? Di questi screzzi. Come non ci importa? Tra la Gabanelli e Grillo, quando pubblicheranno i conti, li pubblicheranno, chi se ne frega. A me non me ne... No. Sai che ti devo dire la verità? A me, di quanto guadagna Grillo col blog e se il blog finanzia la campagna elettorale di Grillo, a me non me ne può fregare di meno. Non me ne frega nulla a me. Aspetta un attimo, non me ne frega nulla. Te lo dico, non me ne frega niente. Lui dice di no. Ha risposto dicendo che dal blog non finanzia la campagna elettorale. Poi, se qualcuno potrà dimostrare il contrario, pubblicasse le fatture, ma che ci importa a noi? Sì, va bene, dimostra. È una questione politica. Perché suona, signora? Perché mi suona? Perché? Aspetta un attimo, stai tranquillo. Voglio far sentire anche la Gabanelli, che però dà delle bacchettate al Movimento 5 Stelle. Occupatevi di altre cose, non degli scontrini. Noi lo diciamo da 10 giorni, da 20 giorni. Ci ho detto. Con 3 milioni di disoccupati smettetela di parlare dei vostri scontrini e il vostro 25% di voti tiri fuori tutte le idee che ha. Nessuno di noi, nessuno al mondo pensa che la... Ma c'è chi è incorreggibile. E qui però c'è una valutazione politica, Cioè non è che è la giornalista d'inchiesta, qui diventa l'opinionista politica Gabanelli, che dice perché? Che fino adesso non state facendo nulla e non occupatevi di scontrini. Cioè questa è un'opinione, non sono i fatti, è un'opinione politica. Siccome io l'ho vista l'inchiesta. Sì, ma è un'opinione, dice... non è l'inchiesta. Questa frase no. Qua, cerca di capire quando parlo. Cerca di capire quando parlo. Ma cerca di capire quando parlo. Ci presenta. No, è tutta un'altra cosa. Qua, la signora Gabanelli, nella sua bellissima inchiesta di report, dopo aver assassinato Di Pietro, sì. Te lo ricorderai. Perché lei qui non ha assassinato nessuno. Guarda, non ha assassinato qui nessuno. Ha colpito finalmente il Movimento 5 Stelle nel punto fondante del suo programma, cioè la trasparenza. Amico benissimo, mio. Ecco perché. No, va bene, politica. Ma questa roba qui che ha detto è un'opinione politica. Possiamo chiudere qua, noi stasera possiamo chiudere qui, andare a casa e riflettere su questo punto. Va bene, sì, se... guarda, ci sto non ci dormo la notte, guarda. Beh, però spicca il mitico Brunetta, Il mitico Brunetta quando dice... Spendete i soldi dell'IMU, tanto non ci sarà più. Cioè i soldi che a giugno avete risparmiato, no, con la prima rata dell'IMU sulla prima casa che non sarà pagata. Se avrete fiducia in Letta e nel Popolo della Libertà, perché questo faccio anche un po' di propaganda politica, potete spenderli, perché a settembre non pagherete, come non pagherete a dicembre il conguaglio. Quindi l'IMU sulla prima casa non ci sarà più, ci sarà una grande riforma di tutta la tassazione. Allora io dico una cosa, caro Brunetta, guarda che ti vengo a cercare. Io spendo adesso quello che devo spendere, mi faccio fare i conti da commercialista, quanto avrei versato versato a giugno? Quanto avrei versato a giugno? 200, 300, 400, 500? Non me lo ricordo nemmeno io, non lo so, forse di più. Per l'IMU sulla prima casa. Ti giuro che se dopo me la rimettete, ti vengo a cercare con i forconi sotto casa. Anzi, la paghi tu la mia IMU. La paghi no, tu. Se io faccio un regalo alla mia amante, non so, a qualche donna, a qualcuno, non so, faccio un regalo, voglio fare un regalo anche di 5. Oppure a Parenzo, sì, voglio regalare una cosa a Parenzo. Ti giuro che se dopo mi rimettete l'IMU, ti vengo a cercare sotto casa. Allergico a tutte le prediche, Pinocchio di tutte le favole. C'è molto da raccontare oggi, abbiamo molto da offrirvi, però sentite questa cosa di Vergassola che è meravigliosa. Sulla Sant'Anchè lesbica, la frase provocatoria della Sant'Anchè da Santoro, eh. Sentite l'interpretazione di Vergassola, meravigliosa. La Sant'Anchè ha detto: sono lesbica e ormai non sa più che scusa inventarsi per non andare più a letto con Sallusti. Andiamo nel grillo parlante. Beh, stupenda, eh. Partito Democratico dice che le elezioni devono essere aperte solo ai partiti, ha fatto una proposta che sembra andare contro la contro Grillo. 800 24 00 24, ma c'è in collegamento con noi, nonostante il solito Parenzo che ha invece un collegamento precario, sicuramente si sente bene a Treviso. Dove c'è? Beh, chi c'è a Treviso? Giancarlo Gentilini, buonasera. Ciao radioascoltatori, vi parla Gentilini, lo sceriffo d'Italia numero uno. Come stai, Giancarlo? Tutto a posto, siamo pronti per vincere per la quinta volta. Eh beh, scusami, ma quanto vinci? 80 per quanto prendi, Giancarlo? Ma io spero di riuscire al primo colpo. Se il popolo mantiene le promesse che io sento da mesi, mi dicono sia il sindaco non molli, tenga duro, perché c'è il pericolo incombente della sinistra. Che quindi sceriffo più che mai, sempre il sceriffo. Scusa. So che ci sono tanti altri sindaci che hanno usurpato questo titolo. La voglia. Senti, anche quello di Padova che si arroga di essere sceriffo, non le ho mai dato la stella di vice sceriffo. Ah, quindi... Zaronato. È diventato ministro adesso. È diventato ministro, sì, ma succede di tutto a questo mondo, quindi... Vabbè, perché Zaronato non è bravo. Lunga vita. Ma non è bravo Zaronato, scusa. Beh, insomma, questo lo devi chiedere ai padovani. Ah, ai padovani. Senti, sai quanti padovani io incontro nei miei viaggi al di fuori del comune di Treviso? Che ti dicono? E sai quanti mi hanno detto, signor sindaco, venga a fare il sindaco a Padova, abbiamo bisogno di un elemento come lei. Quindi il giudizio io lo do ai cittadini padovani. Senti Giancarlo, ma Parenzo, salutalo in veneto come al solito, anche se poi tu sei padovano. Ciao Giancarlo, ciao, sono Parenzo. Pronto? Volevo dirti in veneto una cosa, guarda Giancarlo. Sì. Io sogno un sindaco di Treviso musulmano. Non c'è niente, dimmi. No, dice che sogna un sindaco di Treviso musulmano. Guarda, amor di Dio. Io ho fatto 9 anni di collegio Pio X, e quindi i miei principi sono indistruttibili. Senti quindi, Giancarlo, ma chi non vota per te a Treviso chi è? Chi è che non vota per te? Tu? Ma chi non vota per me? A Treviso, tu sono coglioni? Tutta la sinistra. È la sinistra trinaricciuta, quella di Guareschi, hai capito? Sì. Che dove si mettono il re Travicello, votano tutti il re Travicello, no? Quindi poi c'è questa accozzaglia di cespugli, cespuglietti, mentre la mia compagine è una roccia, indistruttibile. Senti Giancarlo, ma che ne pensi del ministro Chieng? Ti è piaciuta questa nomina del ministro all'integrazione? Della Sicilia? Sì, della Sicilia. Della ministra Sicilia, io dico che la eliminazione... del reato di clandestinità è una bestialità colossale, perché tutti gli stati lo mantengono, e non riesco a capire come ci possa essere questa, questa idea. Ma questa è un'idea portata avanti dalla sinistra. Vabbè. Aprirebbero i confini a tutti quanti senza controlli. E invece io ho sempre detto che io desidero la immigrazione come era la nostra emigrazione, che si puntavano sul petto un pezzo di lenzuolo con il nome, il cognome, la data di destinazione, che dove andavano a lavorare. Quella è la immigrazione che io voglio, cioè lo Stato italiano deve diventare uno Stato di diritto e non uno Stato di mozzarella, hai capito? Cioè tu dici che ci vuole una specie di identificazione, tipo certo. Ognuno quando entra in Italia deve avere una targhetta, Ecco, perché uno Stato di diritto deve sapere in ogni momento della giornata chi è che calca il territorio. Cioè italiano. Tu mi stai dicendo per un periodo devono girare con una targhetta in cui è chiaro che cosa fanno, chi sono, eccetera. Ma insomma, com'è? Io parlo con, ho parlato con un plenipotenziario dell'Australia, sì. Mi dice che loro conoscono vita, morte e i miracoli di chi viene, sì. E appena è cessato il lavoro o il permesso turistico, dopo mezz'ora sono là a dire da domani mattina devi partire. Questo è uno Stato di diritto. Non qua che con la cittadinanza, sì. Gli ussoli, ma scherziamo, sì. Una che partorisce sulla riva del mare, sì. Diventa cittadino italiano, la cittadinanza è un premio che deve essere conquistato con sangue e sudore da parte di chi agogna ad essere cittadino italiano. Scusa però Giancarlo, allora questa Chieng dice delle cose pazzesche, hanno fatto bene a nominare una persona di colore lì al ministero? Ma insomma, guarda, io non guardo i colori giallo, nero, sì. Marrone, eccetera. Io guardo il pensiero, sì. di questi personaggi. Beh, però c'entra qualcosa il fatto che sia di colore, o no? Insomma, io non ho mai reputato razze inferiori. Non sono di quegli elementi che vorrebbero che io fossi paragonato a Hitler, hai capito? Ah, no, Gentilino, certo. Ah, sì, Gentilini è un razzista, pari a Hitler, vedi? Io no, io sono grande libertà sui, sì. pensieri. E quindi cioè, ma tu pensi che sia italiana? Io agli Stati Uniti. Pensi che Stati sia... Uniti. Sì, no, d'accordo. Anche la guerra. Certo, ma tu pensi... Neri, sì. bianchi, rossi, gialli. Sì. Ma tutti combattevano per la bandiera a strisce. Sì. E anche qua... Tutti quelli neri, gialli, eccetera, regolari. Devono vedere nel tricolore, sì. la bandiera che li porta avanti. Le zanzare di casa. Siamo qui, caro Parenzo, con Giancarlo Gentilini, prosindaco di Treviso, grande favorito, bisogna dire, anche dai sondaggi delle elezioni di domenica a Treviso, elezioni comunali a Treviso, il mitico sceriffo italiano, 84 anni, una cosa pazzesca, si ricandida. Una cosa pazzesca, ma io come sono della maschia gioventù. Ma come fai? Come fai? Come fai a tenere botta? Che prendi? Cosa prendi, Giancarlo? Qualcosa prendi, su. Ma io prendo l'amore dei cittadini, caro. Vabbè, d'accordo, ma qualcosa, qualche medicinale, qualche... No, nessun medicinale. Beh, dai. Un'ombretta di prosecco e salame e formaggio. Questo sono il cibo ideale per un sindaco trevigiano. Senti, Giancarlo, ma tu a quella... Salame e formaggio, ma che va? Tu a quel signore là che ha ammazzato tre con la... A quel signore ghanese che si chiama Kabobo, che ha ammazzato, che cosa faresti? Ma vedi, io sono sempre stato fautore della pena di morte. Oh, ecco. Perché ricordati che la società, quando viene offesa, sì. deve difendersi. Perché sì. non è giusto che uno, un criminale che sì. si macchia di un efferato delitto così, sì. debba vivere negli alberghi delle prigioni. Beh, con beh. I denari, con i miei denari o i denari dei cittadini. Dunque? No, quindi... lo so che sono contro quei ben pensanti, sì. ma a un dato momento certi delitti vanno puniti, ma puniti proprio nel vero senso della parola. Ecco, e come la faresti questa pena di morte? Con che mezzi? Qual è il tuo preferito? La pena di morte, quella, io sono dell'avviso una... iniezione letale, hai capito? Ah, sì, perché certo. la morte bisogna darla anche lentamente, ma vedi, ma queste sono idee che sento echeggiare quando vado in giro in tutta l'Alta Italia. Ah, beh, tutti mi dicono, signor sindaco, sì. è giusto che la pena di morte venga ripristinata. Io sì. faccio un po' da portavoce sì. della volontà della gente. Cioè, tu dici che poi l'iniezione lenta basta, ma ritarda. La vita finisce, insomma, dai. Quando tu ti macchi sì. di quei delitti là, sì. Così senza senso, se è un delitto d'onore, allora sai che ci sono le attenuanti, eccetera. Sì. Come? Ma questa è una cosa pazzesca. Scusa, la pazzia, ma è pazzesco quello che dice lui. La pazzia va eliminata. Scusa, Giancarlo. Ma come delitto d'onore? Stai tranquillo, Giancarlo. Scusa un attimo, però l'alternativa. No, per in alternativa, se, no, c'è anche qualcos'altro, non c'è solo la pena di morte, no? No, beh, ma ci vuole un ergastolo. Ma ora bisogna. Che ne so, il taglio della mano? Che ne so, il taglio della mano? Che ne so, i bagni penali. Sì. Di francese memoria, sì. Sai, quei bagni penali. Ah, dove, beh, certo, sì, ecco, sì. quello per star, spaccare pietre dalla mattina alla sera, sì. Finché non riescono più a spezzare le pietre, perché meritano quell'input, sì. della civiltà italiana. Scusa, non ma è possibile a Treviso che succedano per queste cose per le strade, ma assolutamente no. Cioè, sua fosse perché vorrei che a quei ragazzi, quelle persone, sì. che difendono, sì. la vita, sì. e ora fanno sti sproloqui, eccetera, sì. vorrei che succedesse a qualche familiare. Scusa, perché è molto, sì. facile parlare con la pelle degli altri. Sì. Ricordati, sì. che questo bisogna parlare con la pelle propria. Non fare qui proclami, sì. sulla, scusami Giancarlo, fosse accaduto a Treviso, cosa sarebbe successo? Saresti andato tu stesso a strozzarlo con le tue mani? Cosa no, guarda, io sai cosa sento qua tra i cittadini trevigiani? Sì. Mi dicono, signor sindaco, se fosse successo a mio figlio, a mia figlia, a mia moglie, sì. io lo avrei strozzato. Sì. Questi mi dicono i cittadini, e questo è voce del popolo, voce di Dio, ricordatelo. Senti, voglio chiederti una cosa, ma questa legalizzazione della prostituzione la vogliamo fare a Treviso nella prossima? Va bene, dai, su. È dal 1994 che io ho tempestato tutti gli organi di stampa, facciamola, tutti i ministri, no? il Presidente della Repubblica, perché credo che uno Stato civile debba legiferare in materia della prostituzione. Allora faccio un annuncio, dalla prossima, quando divento sindaco, cerco di aprire, di fare qualcosa per Treviso, come possiamo fare? Ma io ho detto che sarei pronto ad aprire gli ostelli dell'amore, ma voi immaginate con tutti questi falsi, questi farisei che ci sono. È difficile, beh, è difficile. Vedi, questo doveva essere un provvedimento legislativo fatto da Berlusconi. Figuriamoci. Perché non è possibile che un fiume di denaro se scorra esentasse. Sì. Senti, ma Bossi, scusa, hai ragione, Giancarlo. Un'ultima cosa però, Giancarlo. Bossi, dimmi. Pare che voglia rifare un partito. Ma non credo. Io credo che ognuno sia padrone del proprio, io ho sempre sostenuto, destino, del padrone proprio... del proprio corpo. Se una donna vuole iniziare, sì. o fare quella professione, lo Stato deve garantire la professione. Ti abbraccio, stessa. Ti abbraccio, a presto, ti abbraccio. Va bene. Ciao, ciao caro. Ciao, ciao. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi sono beh, caro Parenzo, la zanzara sbarca al Parlamento Europeo, cioè al Parlamento Europeo ci siamo già stati in realtà, La Appunto. Seduta plenaria, il presidente Schulz. Senti cosa dice in tedesco, non è facilmente comprensibile, però ci sono quelle due paroline, Radio 24, il sole 24 ore, perché lo sai che succede al Parlamento Europeo? Vogliono mettere sotto processo Borghezio, c'è una petizione di 130.000 persone, 130.000 firme per cacciare il povero Borghezio dal Parlamento Europeo. Adesso Beh, uno cacciarlo, non è... cacciarlo, lo vorrebbero cacciare, non si può, però ma non è che non delle si può, cose gravissime, ma che abbia detto delle cose gravissime, questo lo pensi tu, io penso che abbia giocato, abbia scherzato, abbia espresso quello che sente, quello che pensa. Io posso non essere d'accordo e non sono d'accordo, ma ha tutto il diritto di esprimerlo, ha tutto il diritto di dire quello che pensa, e chi ha firmato quella roba per cacciare Borghezio sapendo che non può essere cacciato è un ipocrita. Anche le idee più estreme, anche quelle più estreme, devono avere patria. Meine Damen und Herren, ich bin von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen auf Äußerungen angesprochen worden, die der Abgeordnete Borghezio am 30. April in einem Interview mit dem italienischen Radiosender 24, dem Sender von Il Sole 24 Ore, über die Nominierung der Ministerin für Integration, Frau Cécile Kyenge-Cacheto, gemacht haben soll. Auch wurde ich über eine... Vabbè, insomma, capisci... Dette cose gravissime in Guggianen, Guggianen e razzismo con Borghezio. No, ma io non c'entro nulla con... Dette cose Guggianen, dette cose che graven, Guggianen. Adesso c'è detto Guggianen. Vabbè, ma insomma, alla fine, qual è il rimprovero che viene fatto a Borghezio? Per esempio, il governo Bonga Bonga con la casalinga di Modena. Questo viene rimproverato, il governo del Bonga Bonga. È un richiamo. Senti, ci vuole. Io non sono d'accordo, ma mi batterò perché Borghezio possa dire queste cose anche al Parlamento Europeo e basta con queste petizioni per cacciarlo. Buona Padania, perché con questo governo viene veramente voglia a chiunque di fuggire dall'Italia. Col governo del Bonga Bonga, con un governo di questo genere, abbiate pazienza, questa non si è ancora insediata la casalinga di Modena e dice che già deve cambiare. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Napolitano, subito misure per l'occupazione, il governo prepara il piano lavoro, Obama Letta, priorità il lavoro giovanile. Polemica sulla proposta PD, al voto solo i partiti con regolare statuto, Grillo se passa disertiamo le elezioni, la replica non è contro i movimenti. Il decreto IMU fa litigare il PD, Renzi abbiamo pagato una cambiale a Berlusconi, Epifani replica nessun regalo, solo buonsenso. I 5 Stelle contro la Gabanelli per l'inchiesta sui soldi del blog, lei replica dimostrate che ho detto il falso. A Perugia due ragazze massacrate di botta, a Caserta la miss in fin di vita, ancora violenza sulle donne, il ministro idem al TG3. Un anno fa il terremoto che devastò l'Emilia, 28 morti, migliaia di aziende distrutte, la voce della gente, lo Stato non ci dimentichi. Anche a Firenze insulti contro i giocatori del Milan e contro Balotelli. Renzi si scusa e il giudice chiude per un turno la curva della Roma. Zanzara! C'è una zanzara. Oggi il ministro Kyenge, quella dell'integrazione, il ministro dell'integrazione, ha detto una cosa però corretta sul caso Balotelli, secondo me. Cioè ha detto che non tutti gli ululati, non tutti gli insulti sono razzisti, ed è vero, basta con questa storia che il primo insulto che si fa nei confronti di Balotelli o di chiunque altro sia di colore venga catalogato sotto la parola razzismo. Non è così, non è così. Ma che mondo è questo, ma in che cosa? Renzi ha ripreso a parlare e il Partito Democratico è in subbuglio. Questa mattina da Milan... L'IMU è una cambiale pagata a Berlusconi. E da un certo punto di vista verrebbe da dire ha scoperto l'acqua calda, diciamo, no? Comunque. Il fatto di aver intervenuto sull'IMU è naturalmente una cambiale che si paga all'accordo con Berlusconi. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Che mondo? Abbiamo preso i ministri alle idee della destra, io... dice Renzi, io scrivo i libri con Mondadori, invece noi del Partito Democratico prendiamo direttamente i ministri. Mondo è questo, ma che mondo? Vai avanti. Vogliamo subito toglierci questa polemica sulla questione del perché editare da Mondadori, da Berlusconi, Renzi? No, questa volta non l'avevo visto, c'è polemica anche a questo giro, non no, per il momento no, ma è uscito da un giorno. Ha fatto un libro, loro ci hanno fatto il governo con Berlusconi, non so chi ha messo meglio, mettiamola così, dai. Ma che mondo è questo? E poi contro i grillini sulla diaria si divideranno, rivoluzionari dello scontrino, su questo c'ha ragione, Danno l'impressione di preoccuparsi più delle proprie vicenducole, esattamente come tutti gli altri partiti, sa che su queste cose, secondo me, andrà a finire che loro si divideranno e quindi sì, la risposta è secondo me si spaccano. Cercarne un altro. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Vai avanti tu così ti guardo meglio. Ma che mondo è Giuliano Ferrara legge gli SMS alla 7, sentite. Vai in onda. Io qui ho gli SMS, se l'ho volete capito, ma chi sono i nove? Se non facciamo presente il consiglio, se volete non abbiamo leggo un aspetto pubblico. Scusate, Rossella, non chiamiamo Rossella in questura e facciamo le persone. Rossella, sono di nuovo raggiungibile dalle 20:19. Ma quello è un messaggio della Paola Peduzzi. Dice: non ci si può mai fidare dei radicali. La Bonino ha dato un'intervista al Corriere, ce la doveva dare a noi. Giuli dice. La Santa Anche è contenta del nostro futuro, noi la definiamo una pitonessa. Dice che Berlusconi ha detto ciao pitonessa e io rispondo yuhu. La notizia è che Berlusconi chiama la Sant'Anchella pitonessa, la pitonessa. Va bene, siamo qui la Zanzara 800 24 00 24. Matteo dalla provincia di Pisa. Buonasera a tutti, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Niente, io volevo parlare innanzitutto dell'immigrazione, che secondo me ci sono da fare un po' di distinguo, perché l'integrazione magari potrebbe andare bene se fossero tutti regolari, si trovassero tutti un lavoro senza fare gli abusi e senza vivere alle spalle magari di noi persone che paghiamo le tasse, forse anche troppe. Ma chi è che vive alle spalle? Chi è che vive alle spalle? Gli immigrati, perché io sono stato anche in degli alberghi. Gli immigrati la maggior parte delle volte sono dei disperati, non vivono alle spalle di nessuno, che vuol dire? Per me ci dovrebbero essere delle regole ferree per l'entrata, io non tollero che ci siano persone qui senza permesso di soggiorno regolare, questa è una cosa che mi fa impazzire, in altri paesi è impensabile, in Italia c'è una sorta di libertà assoluta. Vabbè, ma lasciamo perdere questo, lei che dice però? Sono d'accordissimo anch'io, a me magari non mi sta bene quando magari vado negli alberghi. Cioè per me ci dovrebbero essere proprio i muri, siccome facevano in Spagna, nella Spagna di Zapatero, mettevano i reticolati con le torrette, e con i mitra. I reticolati con le torrette e con i mitra. Sì, ecco. Fanno in Grecia, ecco, che li mandano indietro a pedate nel sedere. Vabbè, poi? Niente, no, a me magari mi dà noia quando io vado negli alberghi vedere gli immigrati che gli viene dato un sussidio di 130 euro al mese. Ma a chi viene dato questo sussidio? A chi? Dallo Stato agli immigrati, quelli che vengono in Italia. Ma sì, vabbè, quello fa parte dell'accoglienza. Una volta che arrivano, ovviamente, non è che li puoi... Ma è l'accoglienza verso i nostri che magari vanno a rovistare le cassonette della spazzatura, pensionati, che vabbè, magari sono due temi diversi, ma che c'entra? Sono due cose diverse. Matteo, grazie. Vai, Carmine da Lecce, buonasera, no. Carmine. Caro Cruciani, buonasera. Vada. Sì, la chiamo per a proposito di Rubi. Sì, che c'è da dire su Rubi? Un argomento che so non esserle indifferente, il sesso. Il sesso. L'altra sera ho avuto anche a lei il sesso non è indifferente, giusto? Mi auguro. Sì, sì, non è indifferente. E allora che vuole da me? Dunque, no, la chiamo perché l'altra sera ascoltando la sua trasmissione ho avuto una piccola rivelazione. Cioè? Stavo ascoltando un intervento piuttosto noioso di una sua ascoltatrice, quando a un certo punto, prima di essere cassata, ha detto di avere delle fantasie erotiche che la riguardavano. Sì, allora? Ecco, allora, non so come, diciamo in maniera del tutto casuale, a un certo punto mi è venuto da pensare che la maggior parte, non dico delle donne italiane, ma almeno delle ascoltatrici della Zanzara, avessero delle fantasie erotiche che potevano riguardare non solo Cruciani, ma forse in maniera più preponderante i nostri politici e Berlusconi. Allora, io, lei, siccome e quindi vorrei invitare gravemente... le ascoltatrici della Zanzara a intervenire, a dire... quali sono le loro fantasie erotiche? Beh, questo è interessante però. Carmine, era partito male, perché era partito male, però ha finito bene. Pubblicità 800 24 00 24. Concorrenti sleali. Axerta, dal 1963, investigazioni aziendali. 800 800 007. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. E lui chi è? Ah, Simona, ti presento Ugo Cesana, il più grande imitatore di Simona Ventura. Ah, e dove l'hai trovato, Massimo? Vabbè, dai, sentiamolo. Vai, vai, Ugo! A maggio Citroen C1000 trazione 5 porte a 7.990 euro, con clima e controllo di stabilità in curva. Info su citroen.it, anche domenica 26. Ma è impressionante! Che te ne pare? È bravo, no? No, non mi somiglia per niente. E lo sapevo. Benvenuto. Per parlare con un operatore, premi 1. Per avere una vita come Steve McQueen, premi 1. Per tornare all'essenziale, premi 1. Per trovare parcheggio sotto casa, premi 1. Abituati ad avere tutto in un'unica soluzione. Optima Italia, vita semplificata per il tuo business. Elettricità, gas, telefono, mobile, internet. OptimaItalia.com. Per tornare al menu principale, premi 1. Se questa è la colonna sonora delle tue giornate di lavoro, rilassati. Ci pensiamo noi, garantito. Stampanti Brother. Veloci, economiche, innovative e semplici da usare. Acquista una stampante laser OLED a colori. Avrai l'estensione di garanzia a domicilio per 3 anni. Promozione valida dal 1 maggio al 31 luglio 2013. Info e regolamento su brother.it. Brother at your side. L'unità master in una stanza, l'unità pool nell'altra stanza, per rinfrescare tutta la casa, la soluzione, Unico Twin, climatizziamo senza rumore, tecnologia, Unico Twin, solo 2 fori sulla facciata, unifunzione, Unico Twin. Dopo il grande successo di Unico, Olimpia Splendid ha creato Unico Twin, il primo climatizzatore senza unità esterna in grado di climatizzare 2 locali. Olimpiasplendid.it, home of comfort. Bellissimo Unico Twin. C'è chi ha una marcia in più, chi ha la marcia sempre in granata e chi ha il TCT. Piacere di guida, comfort ed efficienza. Scopri Alfa Romeo Giulietta con cambio sequenziale sportivo Alfa TCT. Gamma Giulietta a partire da 15.900 euro e in più, solo a maggio, 1.000 euro di ulteriori vantaggi sulle vetture in pronta consegna. Offerta valida in caso di permuta fino al 31 maggio. Borse in diretta. Wall Street consegni tutti in negativo, il Nasdaq cede lo 0,14%, il Dow Jones lo 0,07%, lo Standard & Poor's 500 invece cala dello 0,05%. In Europa invece è stata una giornata da record per Francoforte e Londra, mentre a Milano il FTSE MIB ha ceduto lo 0,56%, ribasso tecnico per Piazza Affari a causa dello stacco cedole per oltre una ventina di blue chip. Francoforte chiude in rialzo dello 0,69%, al massimo storico di 8.455,83 punti. Anche Londra sale ai massimi da settembre 2000 e guadagna oggi lo 0,48%, bene anche Parigi che segna un più 0,54%. Lo spread tra BTP e Bund tedesco chiude in calo a 252 punti base rispetto ai 257 di venerdì, con il tasso sul decennale al 3,89%. L'euro in questo momento vale 1,2871 sul dollaro. È tutta la Borsa in diretta, torna tra un'ora. In collaborazione con borsaitaliana.it. Gestire correttamente le informazioni aziendali è il nodo cruciale delle piccole e medie imprese. TeamSystem studia da oltre 30 anni le soluzioni migliori alle problematiche di gestione aziendale. L'ERP Gamma Enterprise è software ideale per tutte le aziende italiane che vogliono controllare, gestire e analizzare tempestivamente i dati aziendali, fornendo risposte adeguate ed immediate al mercato. Vuoi essere avvisato dal tuo gestionale quando qualcosa non va nel verso giusto? Scopri Gamma Enterprise di TeamSystem, la migliore soluzione per vedere prima ed agire subito. TeamSystem, vicina da sempre alle piccole e medie imprese. Love is endless. Abbraccia Opel Meriva. Opel Meriva ti abbraccia aprendo le sue flex doors. Opel Meriva, la monovolume compatta, sempre più accessibile, oggi completa di tutto, anche di navi e viva voce, a 12.900 euro. Scoprila anche GPL Tech. Che bel tablet, ma è un Dell? Sì, è il mio Dell Latitude 10 e funziona con Windows 8 Pro. Ha tutte le funzionalità di un PC e posso connettermi alla rete aziendale. Sì. E rottamando qualsiasi PC ti rimborsano 150 euro. Vai su Dell.it, chiedi al tuo rivenditore di fiducia e permutando il tuo vecchio PC ottieni un rimborso fino a un massimo di 150 euro. Microsoft Windows 8, bello, fluido, veloce. Con le spazzole consumate rischiamo di non vedere i pericoli. Ecco perché oggi in Carglass, quando ripariamo o sostituiamo il parabrezza, le spazzole le regaliamo. Sono Bosch e sono gratis fino al 31 maggio. Carglass ripara, Carglass sostituisce. Regolamento completo su carglass.it. Jerry, Jerry, un autografo! La firma che faccio più volentieri? Quella sul 5 per 1000 a favore della Fondazione Humanitas per la ricerca. Perché fanno ricerca per curare e meritano la tua firma. Iomerito.it. Ci sono cassetti con dentro un principe azzurro, altri che contengono una barca a vela o una laurea all'estero. Sogni che rimarranno lì nel loro cassetto. Ma se vuoi farli diventare realtà, portali in IVBank. IV Bank offre una gamma ampia e conveniente di prodotti di risparmio gestito, con la comodità del servizio online e la garanzia di una grande esperienza. Scegli di realizzare i tuoi sogni. Vai su ivbank.it. IV Bank, scelta da chi sa scegliere. Pubblicità, condizioni contrattuali e fogli informativi su ivbank.it. Quante volte avete desiderato di avere l'auto su misura? Bene, ora potete averla con la grande festa dell'usato e delle chilometri zero Fassina. Il 24, 25 e 26 maggio, tre giorni nei quali potrete scegliere la vostra auto tra centinaia di modelli esposti, di vetture in tutti i colori e allestimenti, motorizzazioni e soprattutto con modalità di pagamento personalizzate. Venite alla festa dell'usato e delle chilometri zero Fassina il 24, 25 e 26 maggio e per tutti i nuovi clienti una mitica felpa Abarth. L'auto su misura è solo da Fassina. www.gruppofassina.it. La zanzara. Wo geht's hier? Am 30. April in einem Interview mit dem italienischen Radiosender 24, dem Sender von Il Sole 24 Ore. Una parola d'uma dira te turista in cinese non dormi. A me fa impazzire questa cosa di Brunetta che invita tutti a spendere i soldi dell'IMU di giugno. Io ve lo assicuro, se poi io voglio fare un regalone a Parenzo, di non so quanti soldi, vi giuro che se questi soldi poi me li chiedono indietro a settembre, quando faranno questa benedetta riforma dell'IMU, vado a cercare Brunetta sotto casa, oppure lo aspetto fuori dal Parlamento, lo aspetto sul serio. Se avrete fiducia in Letta e nel Popolo delle Libertà, perché questo faccio anche un po' di propaganda politica, potete spenderli, perché a settembre non pagherete come non pagherete a dicembre il conguaglio. Quindi lì sulla mia stanza. Come vorrei prendere a schiaffoni, cari ascoltatori, voi che siete in macchina, nei taxi, negli autobus, nei camion, oppure quelli che siete a casa con le cuffiette. Vorrei prendere a schiaffi questo signore, sembra sia lui un tizio del PDL dell'Interland milanese, che ha confezionato sul web, caro Parenzo, un fotomontaggio con il sindaco di Milano Pisapia e il primo cittadino di un paese qui nei dintorni, San Giuliano Milanese, che si chiama Lorenzano, sempre del Partito Democratico. Ma sai cosa ha scritto questo signore, che pare che sia uno del PDL locale? Non ti verrebbe voglia di prenderli a picconate? E poi fatto, cioè incita le persone a prendere a picconate come ha fatto Cabobo, il sindaco di Milano e un altro sindaco del Partito Democratico. Ebbene, questo signore che ha confezionato questo fotomontaggio, che ha creato, è un imbecille. Diciamo nome e cognome del signor Corrado Biondino. Aspetta. Secondo Giuliano Ferrara, Berlusconi la sera non piace giocare a canasta. Però lo sapevamo questo qua, caro Ferrara. A voi piace politica. Giocare a canasta con vi piace giocare a canasta? Ma canasta no. Non si gioca più da 50 anni, che appunto, Ferrara. Allora, a Berlusconi non piace giocare a canasta con i suoi coetanei. No, mi piace, io sono d'accordo con lui. E invece, secondo una giornalista del Corriere della Sera che si chiama Maria Teresa Meli, Berlusconi andava a puttane. Berlusconi andava a puttane, scusa, allora detta così è normale, no, ma non lo so, no, non è che ci stiamo scoprendo una... Scusatemi, non si può mettere Ferrara tutto non... insieme. Una parola d'uma dirà te, turista in cintere se non dormi. Siamo qui, 800 24 00 24, la zanzara. Ivan da Palermo, buonasera Ivan. Buonasera. Dica. Io più vi ascolto e più rimpiango Sant'Almassi. E chi se ne frega? Vabbè, è il mio parere. Come ha detto poco fa, Borghezio? Sì, ma non lo so. Io lo dico io. Sì. Ha detto cosa quello ha detto? Che vuole, ha detto che può dire tutto quello che vuole. Sì. Ma lei infatti può dire anche se lei non lo condivide. Ma infatti lei può dire tutto quello. Lei può dire tutto quello no, che vuole. No. Si sfoghi pure. È il momento dello sfogo. Lo so che viene da una giornata in cui è particolarmente represso. Lei è particolarmente represso. Lei mi fa ridere, è troppo forte. Sì. No, meno male, meno male che la faccio ridere. non sono represso. Vabbè, no, insomma, vuole toglierci qualche sassolino. Che mi dà, sì, esatto, quello sì. Ecco, bravo, è che mi dà fastidio, è che mi dà fastidio che lei usa due toni diversi. Sì. Con la gente di potere è in una maniera. Sì. Con noi normali. Guardi, glielo spiego un'altra volta, Ivan, perché è troppo complicato forse per lei. Non ci arriva. Lei non ci arriva, forse. Lei non ci arriva. Ci arrivo, ma siccome io ho iniziato a seguirla perché lei difendeva la gente comune. Ma io non devo difendere nessuno. Ma perché? Perché deve fare, perché si deve attirare simpatie dei politici perché proprio la cagano. Scusi un attimo, ma cosa significa la parola difendere la gente comune? No, scusi, io non ho capito questo concetto. Difendere la gente comune. Lei ha espresso questo concetto che non significa niente, nulla. No, glielo spiego subito. Ah, me lo spieghi, genio, professore. No, io oggi non, il professore è lei qui. Sì. Noi oggi abbiamo bisogno di essere difesi. Ma da chi? Ma chi deve essere difeso? Chi? Come? Quando? Perché? Ma lei mette insieme tutti, abbiamo bisogno di essere difesi come se ci fosse una comunità. Ma da chi? Come? Perché? Chi è il soggetto? La cosiddetta casta che non fanno altro che prenderci per il culo tutti i giorni, anche adesso, anche a lei. Si sfoghi. No, io non mi sfogo. Sto dicendo soltanto quello che penso, è soltanto quello che penso. Per cui lei come fa con Borghezio? Perché lei dice a noi, quando a noi, a tutti i telespettatori, ai radioascoltatori, quando non le piace qualcosa, lei è un cretino. Ma infatti io la sto facendo. Perché non dice a Borghezio, lei è un cretino? Perché? Non lo guardi, spiega? Abbia pazienza, caro Ivan da Palermo. Io non è che non dico a Borghezio, sono due cose, due piani completamente diversi. Ma perché glielo devo spiegare? No, glielo spiego io perché. Se lo dice a me, cretino. La cosa finisce lì. Sì. Se lo dico a Borghezio, le fa il culo. Ma che culo? Ma di che sta parlando? No, glielo dico io, è così. Ma quale culo? Ma di che? Lei non capisce, il punto è che non capisce. Borghezio serve a una cosa. Borghezio serve a una cosa, se vuole metterla in maniera così brutale. Borghezio serve a una cosa. Lei che sta intervenendo serve ad un altro copione, lo capisce o no? Certo. E allora basta. Si chiude, su. Però siccome noi, ripeto... Senta, io non condivido quasi nulla di quello che dice Borghezio, ha capito o no? Come glielo devo dire? In aramaico? Ma glielo deve dire a Borghezio, però non ma glielo dire dico in Borghezio faccia, guarda, glielo dico anche in diretta, non ho problemi, perché lui si continua a sentirsi in diritto di dire quelle ma figuriamoci se poi viene spaventato dal fatto che gli dico che non sono d'accordo, ma abbia pazienza, sono altre cose. Non è questione di spaventarsi. Ivan, lei è molto simpatico, molto bravo, combatte, però sono due piani diversi, con lei continua a restare la sua idea, io della mia. La ringrazio. No, Ada da Vicenza. Grazie. Buonasera. Ada da Vicenza. Ah, buonasera. Buonasera, cara signora, dica. Shalom Parenzo. Shalom Parenzo, bellissimo. Abbiamo un'altra ebrea. La pitonessa di Vicenza. La pitonessa di Vicenza. Lei è la pitonessa di Vicenza. Eh beh, se lo sento anche la pitonessa, io sono la pitonessa di Vicenza. E perché lei dovrebbe essere una pitonessa? Era una battuta, giusto, per drammatizzare le cazzate che vengono sparate spesso. Anch'io sono una radioascoltatrice, però non mi sento non protetta, no? Voglio dire, condivido in toto tutte le sue idee, opinioni. Ma non c'è problema. Non c'è bisogno, anzi, sì, è meglio essere in disaccordo come che essere d'accordo. Cioè, lei, scusi, condivide in toto le opinioni di Cruciani? Sì. Sì. Le dispiace, Parenzo. Io sono una pacifista. Lo ritengo drammatico. Drammatico lo ritengo. Vabbè, ma ognuno è libero di scegliere come gli garba essere, no? No, per carità, se lei crede nel diavolo, va benissimo, è il diavolo, rappresenta il satanico. A proposito di diavolo, sembra che oggi il Papa abbia fatto un'opera, ieri o oggi, non mi ricordo, l'ha scoperto Affari Italiani, abbia fatto quasi un'operazione di esorcismo, no? No. Esistono i diavoli, li avete mai visti? Io l'ho visto il diavolo. E chi sarebbe secondo lei il diavolo, scusi? No, ma l'ho visto proprio come immagine. Sì, quando l'ha visto? Noi siamo circondati da presenze che non vediamo, ma esistono. Ma lei si è fatta visitare qualche volta? No, no, non mi sono fatta esorcizzare. No, visitare da qualcuno bravo, no? Siccome vede il diavolo, sì, vede il diavolo ogni tanto, allora c'è bisogno forse di una visitina, no? No, assolutamente. No, ma perché se voi mi dite che ma io credo al diavolo... Vede il diavolo? Parenzo mi ha detto, se io credo al diavolo, perché... No, ma io voglio capire in che senso lei vede il diavolo, signora mia? Ma mi è capitato di averlo visto. Ma dove? Visto. Dove? Ma dove? Il diavolo, per cortesia? Il diavolo, no! Il diavolo, basta il diavolo! Vabbè, il diavolo. Allora, No, io il diavolo sostenere. No, Ada, sennò dobbiamo chiamare padre Amort. Vabbè, ma no, ma il fatto che l'abbia, ma l'ho scacciato, per questo che non mi si è più avvicinato. Ma come l'ha schiacciato? L'ho scacciato, ho detto guarda non venire a rompere, e quindi lui ha capito che ero forte, che quindi non poteva intaccarmi. Non sì, ma l'ha visto anche dal punto di vista po' fisico? O una visione, no, ha avuto una non visione. È non è un'entità fisica il diavolo. Comunque, cambiamo discorso un attimo. Che vuole, Ada? No, no, cosa voglio? Mi avete chiamato? No, è lei che ha chiamato per prima. Io ho chiamato per esprimere la mia solidarietà, la mia simpatia anche verso quei due personaggi. Chi che sono il sindaco di Treviso. E vabbè, lei sta simpatico il sindaco di Treviso, abbiamo capito. Dunque? Sì, insomma, ha 84 anni, è un uomo integro. Poi? Anche andiamo avanti, poi? E anche all'avvocato Piero Longo. Vabbè, Ada, la ringrazio, la ringrazio. Marcella dalla provincia di Fermo, dalle Marche. Buonasera Marcella, cosa ha da dirci alle 19.45? Buonasera, allora, quello che voglio dire è fare una critica ai conduttori della radio. Ah sì, ma una lei può fare tutto. Una radio che è partita benissimo, perché l'ho ascoltata da quando era partita. Ma adesso proprio non so come definirla, se comica o, o giullare perché è troppo... gli si dà un nome troppo importante, ma non sarebbe meglio migliorarla, ritornarla a quando è iniziata? Ma io non so di, di chi sta parlando, scusi Marcella, di chi parolacce non finire, cose strabalate, oddio che paura, un'informazione che succede nella giornata e a curare quell'informazione. Che impressione, che perché impressione. Non avete parlato, perché non avete approfondito, parlato fortemente approfondito. Di io quella odio gli legge che si sono fatti i parlamentari della sanità loro, gratuita, loro, familiari ed altri. Quello significa informare l'approfondimento, la gente. Odio la parola approfondimento. E allora che facciamo? Allora facciamo proprio guarda, io sono un amante della radio tutta perché mi piace ma perché radio, non spegne la zanzara e così risolve la questione? Ma è vero, io perché però non lo fa, signora? La moglie di Rutelli non l'ho spenta, l'abbiamo fatta spegnere, penso in tanti, conduceva una trasmissione dove faceva pena. Guardi che mi risulta che sia ancora in onda però, mi risulta che sia ancora in onda. Non credo, perché forse le avete portato fortuna, non credo, perché in quell'orario lì non c'è più. Ma lei fa finta, ma in realtà gode come una matta quando ascolta la zanzara, dica la verità. Lei fa finta, poi quando ascolta gode. Allora, io amo la radio, che non ti dico quando, e appunto, allora radio. Ci chiama molto, però questo non mi piace come però io posso fare una critica, può fare una critica, perché io se uno mi viene a fare una critica ne faccio il tesoro. Voi mi sembra che tesoro facciamo tesoro tesoro di tutto. Ecco, allora l'altro giorno addirittura stavo pure sentendo voi, mio marito dice ma che sei messo a sentire la radio radicale, mi fai pena. No, che c'entra la radio radicale? Come la radio radicale? Come la conducete in questo modo? A livello di radio radicale, anzi. Ma che sta dicendo, signora? Vabbè. Danzano come zanzare. Allora, però devo dire la verità, si possono fare tutte le battute, però quella del signor Bergassolo è stata dura, è stata molto dura quella del signor Bergassolo. È con noi Daniela Santanchè, buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Come sta? Ben ritrovata. Sono malata. Che è successo? La freddore, la tosse, c'ho mal di gola. Una cosa come mia figlia, una cosa tremenda. Anche la poverina è mala. Sì. Poverina. Però, poverina, che c'è? Perché uno non si può ammalare, cioè non è che è esso di ferro. No, mi dispiace. Dispiace molto, vero Parenzo? Sono malata. Molto. Ma scusi, volevo capire questo: se lei è la pitonessa, chi è il pitone? Non è lei. L'unica risposta pronta che ho è questa. Ma è vera questa cosa qua che ha detto Ferrara, che ricostruendo tutta una cosa che Berlusconi la chiama la pitonessa, o qualche volta ha pronunciato questa parola, è vero o no? No, mai sentito. La prima volta pitonessa l'ho letto sul Foglio, un bellissimo pezzo che ho inquadrato, perché mi fa strano che scrivano così bene, di Alessandro Giuli. L'ho inquadrato, lo terrò per i miei nipoti. Ma è ironica la cosa oppure... No, l'ho trovato un bellissimo pezzo. Però non è vero. Che Berlusconi mi chiama la pitonessa? No, da d'ora in poi forse mi chiamerà la pitonessa. Però è bello, non è male, la pitonessa. No, mi piace molto la pitonessa. C'è una che a un certo punto il pitone che fa, avvolge e poi ti stringe, no? Non è quello che pizza. No, quello che è? Via, Parenzo, tu quello sei esperto. Ah, quello è il boa, sì, il pitone è che il fa. Ma... il pitone fa come ho fatto l'altra sera con Travaglio, no? Cioè, che fa? Ma no, siccome qua parlano tutti come fossero voi maschi, come se foste, sì, foste perfetti, che ma chi lo dice? E Berlusconi, ho detto Travaglio, dammi il telefonino, leggiamo qualche sms e poi vediamo. Ricordatevi che ogni uomo, sì, ha uno scheletro nell'armadio o uno scheletrino. Ma secondo lei se quanti... prendessi i vostri telefonini e cominciassi a leggere i vostri sms, altro che la Boccassini. No, ma il mio potrebbe andare direttamente a coso, io sarei condannato al rogo. Secondo me è la pena di morte. Ho il rogo. No, il rogo, io lo potrebbe che leggere. Piace, che conquista un sacco di cuori, pensi lei cosa succederebbe, no, Luciani? No, ma il mio telefonino è una roba che mi condannerebbero, ripeto, a rogo, mio anche Papa Francesco potrebbe leggere. No, quello di Parenzo, devo dire la verità, in questo periodo. Anche Papa Francesco potrebbe leggere. Io dico che non si possono processare gli stili di vita, in questo dovremmo fare una battaglia comune. Vabbè, però il problema è che dopo gli stili di vita si processano i libri che si leggono, poi le frequentazioni, e poi le idee, e poi abbiamo Scusi, però le posso far ascoltare, magari si arrabbia, secondo me aspetta un attimo, poi torniamo. Parenzo, una cosa, sì, l'onorevole Santanchè, cioè no, il processo Boccassini, chi è il topino che parla? Il topino attento, perché sapete che i serpenti si nutrono di topi. No, ma topino piccolino è un bocconcino. Che voto si dà? Che voto si dà per la performance a servizio pubblico? Non mi do voto. Voto su... No, non mi so giudicare, onestamente. Non, sì, però non, si è piaciuta contro Travaglio. Io si è non piaciuta. Mi piace mai. Come perché me. Penso come che me. Non piacendosi si può migliorare. Se uno si piace, poi si ferma e Dio è finito. Quanto sono d'accordo. Anch'io non mi piace mai. Secondo me Parenzo si piace da bestia. Parenzo si piace da morire, io invece non mi piace, io mi faccio orrore, perché se dico ho fatto un sacco di cazzate, così la prossima volta non cerco di fare meglio. Bravo, vedi che Cruciani abbiamo molti punti in comune, io lei. Ma non è un topolino, non voglio mangiare. Dire alla Santanchè solo questo, sì. il processo Ruby non sta processando il pisellino di il pube. No, dico questo, il pube di Berlino. No, vedendo il mino ho pensato a Parenzino, il topolino. Non stiamo processando il processo Ruby, non sta mettendo. Sì, ma dillo che ce l'hai piccolo, non è un problema se ce l'hai piccolo, non è, cioè, è una cosa normale. Già fa fatica a esprimere un concetto. Parenzo, sto ascoltando, me lo spieghi bene, se non voglio ce la fa, dirle questo, onorevole Santanchè. Il processo Ruby non sta mettendo sotto processo il pube del Premier. Sì, sì. No, pensi? Non è il pube. Vabbè, del ci premier. Sono i reati. Stai dicendo una cosa banale. Ci sono i reati. Non l'ho capito. Cosa sta processando? Mi dica. Sta processando. Non il pube del premier, perché lei invece sostiene che è sotto processo. Dica lei che non l'ho capito. Mi dica cosa sta processando. No, è lei che l'ha tirato fuori. No, ma lei mi ha detto non sta processando. E cosa stanno processando, Parenzo? Cosa stanno processando? Non stanno facendo uno stile di vita, cioè il pube del premier. Ma cosa? È tre ore che stai con sto concetto. E cosa stanno processando? No, io dico che è la Santanchè che ha tirato fuori. No, ma mi ha fatto una domanda. E quindi cosa stanno processando? Secondo la sua mente. No, lui dice reati, la concussione. È lei che l'ha tirato fuori. Ma quale reato, Parenzo? Si parla di sfruttamento minorile della prostituzione. Peccato che non ci sia la vittima. Si sta parlando di concussione. Ancora. E lo dico da cittadina, siccome ci sono tre servitori dello Stato, ci sono tre funzionari della polizia che per la Boccassini, per me hanno detto la verità, per la Boccassini ha detto una balla, allora dovrebbero essere indagati adesso di falsa testimonianza, perché non c'è il concusso. Scusi, Parenzo, ma di che parla? Scusi un attimo, Santanchè, però secondo lei Ruby chi è? Una prostituta, una che aveva bisogno, una furbastra? Ruby è una ragazza come anche lei, anche Parenzo, ne avrete conosciute tantissimo. Beh, ci sono moltissime donne che pensano, e poi sa, lo spirito forte, la carne debole, soprattutto la vostra, che vogliono frequentare gente ricca, gente famosa, gente potente, perché pensano che nella vita magari hanno delle scorciatoie. Allora, se Parenzo ha mandato un mazzo di fiori a una stegista, nel bilancio di Parenzo pesa molto di più dei 50.000 euro che Berlusconi ha dato alla Ruby, perché Berlusconi è immensamente più ricco di Parenzo. Lei è sicura che ha dato 50.000 euro? Però voi uomini siete quella roba lì. Ma comunque sia, non si processano gli stessi. Ma secondo lei ci è andato Berlusconi con Ruby o no? Ma assolutamente no. Perché ma nella no? maniera più assoluta. Perché no? No? Perché Ruby dice che non c'è mai stato. Basta, lei basta questo. Scusi, ma Cruciani, se io e lei, sì. no? Se io e lei avessimo un rapporto sessuale, sì. o c'è un filmato che ci vede sì. e ci prende nell'atto, altrimenti nessuno mai potrà dire se c'è stato o se non c'è stato. Vabbè, ci sono magari altre testimonianze, cose, comunque e su quali questo. Testimonianze? Si fa in due. Non sì, sì, che 25. Ah, su questo? Vabbè, oddio, si può fare anche 25. Non dietro. È dimostrato. Beh, non lo so. Adesso non so i suoi gusti. I miei sono ancora esclusivi, nel senso che lì sono rimasta. Dopo le però faccio, dopo le faccio sentire una battuta feroce di Vergassola in onda, credo ieri sera o sabato sera. Pubblicità prima, 800 24 00 24. La Santalchè ha detto: sono lesbica e ormai non sa più che scusa inventarsi per non andare più a letto con Sallusti. Da New York a Pechino, da Roma a Berlino, le città allargano gli orizzonti e diventano smart. Smart City. Smart City è il programma di Radio 24 che vede nel futuro delle città intelligenti. Sono Maurizio Melis e vi aspetto da lunedì a venerdì alle ore 21 su Radio 24. In collaborazione con Fisman. Si scrive con la V, si legge Fisman con la F, ma significa efficienza energetica. Ditta individuale? Partita IVA? Legalmail è gratis per 6 mesi. La posta elettronica certificata facile, sicura e accessibile dal tuo smartphone. Per le ditte individuali, obbligo di PEC entro giugno. La qualità e valore su legalmail.it. È un prodotto InfoCert. Ciao, sono Ivan Basso. Con Citroën, sponsor ufficiale del Team Canon del Pro Cycling, se acquisti un veicolo commerciale entro settembre, puoi vincere una bici del mio team. E a maggio c'è il 5 più 5 più 5. 5 anni di tranquillità, 5 anni o 180.000 km di manutenzione, 5 anni di assistenza stradale e fino al 50% di sconto sui veicoli commerciali con finanziamento o leasing a tasso agevolato TAN 3,99%. Anche domenica 26. Info su citroen.it. Regole per la spesa intelligente. Numero 31. Fai la spesa al mattino, quando hai la mente fresca e riposata. Numero 45. Porta a cena la cassiera il mercoledì, per conoscere in anticipo le promozioni. Oppure segui l'unica vera regola della spesa intelligente. Entra da Eurospin e festeggia con noi il nostro 20° anniversario. Scopri le offerte e le straordinarie sorprese che ti abbiamo riservato per ringraziarti di questi 20 anni di spesa intelligente insieme. Eurospin. La spesa intelligente. Se il tuo software restringe i confini della tua impresa, passa a Passepartout Mexal BP, la soluzione cloud per le imprese sempre in linea con il tuo business. Mexal BP supporta e-commerce, B2B, tablet e smartphone, senza rinunciare alle personalizzazioni che rendono unica la tua impresa. Passepartout, il leader delle soluzioni cloud per imprese e professionisti. Chiama l'800 41 42 43 o visita il sito passepartout.net. La stagione di Formula 1 entra nella fase decisiva. E tu entra in Sky e a soli 49 euro stacchi il biglietto per 6 mesi di Formula 1. Ci sono ancora 14 gran premi da correre e 420 ore di diretta da vivere anche in HD. Chiamaci allo 02 50 50, costi e condizioni su sky.it/F1. Ma fai in fretta, il Gran Premio di Monte Carlo parte il 26 maggio ed è in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD. Offerta valida fino al 30 giugno. Perché do al Centro Cardiologico Monzino il mio 5 per 1000? Perché è l'unico ospedale esclusivamente cardiologico in Europa. Perché da 20 anni al Monzino si fa prevenzione e ricerca sulle malattie cardiovascolari. Perché le sue terapie, anche in emergenza, sono le più innovative. Lo faccio per me. Io do al Centro Cardiologico Monzino il mio 5 per me. Dai anche tu al Centro Cardiologico Monzino il tuo 5 per 1000. Fallo per te. Per sapere come, vai su cardiologicomonzino.it. C'è chi ha una marcia in più, chi ha la marcia sempre ingranata e chi ha il TCT. Piacere di guida, comfort ed efficienza. Scopri Alfa Romeo Giulietta con cambio sequenziale sportivo Alfa TCT. Gamma Giulietta a partire da 15.900 euro e in più, solo a maggio, 1.000 euro di ulteriori vantaggi sulle vetture in pronta consegna. Offerta valida in caso di permuta fino al 31 maggio. Oggi parliamo a voi podisti moderni per ricordarvi che quando correte, cioè sempre lungo ameni, viali alberati o postmoderne arterie stradali o su tecnologici tapis roulant, ma dovete cercare qualcosa, è il momento di 89 24 24. per cercare senza smettere di fare. Info e costi 89 24 24.it. La Zanzara. Eccoci qui con Davide Parenzo, in collegamento da Roma, da casa sua immagino a Milano. Daniela Santanchè con la tosse, un po' malata, però sempre battagliera, deputato del PDL. Voglio chiedere subito, ma ha sentito Vergassola? Ma sì, vabbè, ma Vergassola è uno bravo. Per me, guardi, io sono per la satira, purché sia delineato lo spazio. Poi uno, cioè, ma quella satira... è satira secondo lei, oppure parlare di... Ma sì. Ma chi se ne frega? C'è Vergassola, mica me la posso pigliare con Vergassola. No, per carità, no. Ma io le voglio chiedere una cosa, ma al di là delle questioni processuali che poi verranno risolte dai magistrati, ma Berlusconi ha fatto... Io credo che lei sia disposta ad ammettere che forse ha fatto male a frequentare Ruby. Cioè, ma qualsiasi, di qualsiasi tipo sia stata la frequentazione, o no? Ma io trovo che, guardi, ci dovremmo astenere da giudizi. Io non vorrei giudicare la sua vita come lei. No, io non vorrei che lei... Ma però quello faceva il Presidente del Consiglio, non no, è... No, no, ma non c'entra. In aula non c'è il Presidente del Consiglio. Si processa... Sì, ma infatti uomini. L'aula è un'altra cosa. Io sto dicendo, da donna... No, ma io, guardi, siccome ne ho subite tante nella mia vita, di gossip, di maldicenze, di commenti, sì, che... non sono disponibile a fare commenti su comportamenti sessuali, vabbè, comportamenti tra un uomo e una donna. Lei avrebbe, lei avesse avuto una figlia, sarebbe stata contenta che se partecipava alle scene di Arcore? Ma guarda, io conoscendo Berlusconi ho portato più volte mio figlio dal presidente Berlusconi. Suo figlio, una figlia, io ho detto, una figlia. Figlia. Ma ci mancherebbe altro. Cioè, ma l'avrebbe mandata tranquillamente a una cena da Berlusconi? Scusi, io parlo con... Sì, assolutamente. Parlo con due uomini. Sì. Ma voi vi permettete di fare delle cose alle donne soltanto se loro ve lo consentono? Beh, no? Mi pare scontato. Cioè... allora voglio dire, qual è il problema? Io sono una donna e ho avuto la fortuna. Cioè, qualsiasi cosa, lei dice, qualsiasi cosa sia successa ad Arcore, le donne erano consenzienti, dice lei. Di nascere piacevole. Allora le voglio dire, ma so io mettere le distanze necessarie nei confronti di un uomo? Quando io ero ragazzina, che avevo 15-16 anni, soffrivo moltissimo perché le mie amiche mi raccontavano, questo mi corteggia, quello che mi ha invitato. A me non mi succedeva mai. Perché non era corteggiata? Nessuno. No, ma perché? Lo sa perché non mi corteggia? Perché bisogna essere disponibili per essere corteggiate. Se una donna non è disponibile, non viene corteggiata. Dunque tutte quelle che hanno frequentato, diciamo, le scene di Berlusconi erano tutte disponibili, dice. No, ma nessuno era disponibile, tant'è che infatti non si è consumato nessun tipo di rapporto sessuale. Secondo me, se no, da quello che si dice. Sì. No, ma no, ma io non... No, però io adesso non voglio... Sa qual è la differenza vostra? Che siccome io frequento Arcore, conosco molto bene il presidente Berlusconi e vi dico che se non avessi la certezza... Ma se avessi solo il dubbio che il presidente Berlusconi con le donne non è sempre ineccepibile. Ho capito, ma sa, dopo allora, luna di notte magari ne succedevano contro Berlusconi. Magari è andato lei è andata alcune cene e ce n'erano altre in cui ne succedevano di tutti i colori, no, non è escluso. Le do un consiglio, veramente, lei fa un'ottima trasmissione. Ma tutti quei soldi spesi, tutti quei soldi. Allora voglio dire, smettiamo. No, ma d'accordo. Ma lei come li giustifica tutti quei soldi? Per esempio quello stipendio mensile dato all'Olgettini. Secondo lei che cos'è? Che è vera quella cosa lì? Non è inventata dai magistrati? Cioè, ognuna di queste ragazze... Quella è una dichiarazione che ha fatto Silvio Berlusconi. E appunto, ma perché? È uno che dice le cose come sono. Perché, essendo lui una persona che capisce... quello che è successo, cioè quelle sono persone che non troveranno più un lavoro. Ma no, ma non è forse così. Nemmeno, ma perché solo donne e solo belle per giunta? Ma scusi, io... Perché non c'è mai un cesso clamoroso che riceve soldi? Perché mai non c'è un cesso, un paracano? Bello poi è una questione di... Ma se lei dovesse... Ma Ruby è bella secondo lei? Ma io, guardi, non so giudicare le donne. No, secondo i suoi canoni. Non mi sembrava una minorenne in difesa, ecco. Mi sembrava molto più in difesa a Travaglio quando c'era Berlusconi da Santoro. Che mi... Però scusi, Santanchè, io non ho mai visto... Un po' più? Un po' più indifeso, perché ho visto che poi Travaglio tutta... sta roba, quando poi ci sono gli uomini che si confrontano, è bello schiscio. Se dovessi proprio ecco spendere una parola, mi ha fatto più pena Travaglio rispetto a Ruby quando c'è stato Berlusconi in trasmissione. Sì, ma sarà curioso. Senta una cosa, no, però una cosa è questa, mi viene in mente che è seria in realtà. Oggi c'è questo caso clamoroso di questa ragazza di Napoli, modella, che è stata picchiata selvaggiamente dal suo compagno, marito, non so cosa sia esattamente, con cui ha una bambina. Ma la cosa incredibile di oggi che leggo questo qua le ha spappolato una milza. Lei stava quasi morendo, l'hanno operata, eccetera, e adesso lo perdona perché non vuole che finisca in galera, lo perdona. Ma onorevole Santa, che uno poi si fa un mazzo così a parlare di violenza. Ma qual è il problema? Guarda, io ho avuto anche degli episodi dove sono intervenuta quando vedevo un uomo picchiare una donna prendendo posizione, come faccio in tutte le cose della mia vita. Sì. E poi la mia amarezza assoluta è stata rivedere quelle donne con gli stessi uomini. Appunto. Perché sa qual è il problema? Che noi donne abbiamo un po' la sindrome della croce rossina e crediamo che gli uomini possano cambiare, e certune dicono vabbè, mi ha dato una sberla ma poi non me la dà più, e dopo la sberla poi c'è un pugno e poi si riperdona. Io invece vorrei dire alle donne che gli uomini ma dica qualcosa a questa qua, dica qualcosa a questa miss di Napoli, lo perdono e torno con lui. Nel momento che lei mi sta parlando, io in questo momento ricevo sul telefonino, pensi che combinazione, in questo momento non le dico il nome. Abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto per una mamma con una bambina di 2 anni con segni evidenti di abusi sessuali. La donna ha presentato denuncia, ma non prendono nessun provvedimento. Vorremmo mettere al sicuro la potenziale vittima. La prego di chiamarmi urgentemente. Siccome io sono in contatto con questa associazione... Questa però è la violenza nei confronti di minori, è un'altra cosa. Sì, ma no, ma le sono sempre le donne, perché questa è una mamma che chiede un aiuto disperato. Allora io voglio dire alle donne... No, ma dica qualcosa a questa Rosaria Aprea, perché è una cosa pazzesca. Alla Rosaria Aprea direi che sta facendo un grave errore, perché gli uomini non migliorano col passare del tempo, possono soltanto peggiorare. Un uomo che riesce a calci, a spappolare la milza a una donna è un mostro, è un uomo che non ha amore, e che quindi non cadere in questa sindrome di pensare di poterlo salvare, non solo non salverà lui, ma non salverà nemmeno se stessa. Quindi io dico veramente, da donna, un'altra donna, che un uomo del genere non bisogna avere pietà, che un uomo che fa una cosa del genere la prossima volta la uccide, perché non cambiano. No, tra l'altro io credo che la giustizia debba andare avanti lo stesso, perché qui poi se lei ritira la denuncia sembra che non si possa fare nulla, invece bisogna che la giustizia vada avanti lo stesso, cioè non è possibile che uno prenda... Ma dire alle donne di non avere paura, di denunciare... Cioè calci nella milza, quasi in fin di vita, e questa dice lo perdono e torno con lui, ma come si fa? Questa ragazza, pensa ai genitori di questa ragazza. No, pensa ai genitori, magari sono d'accordo pure i genitori, che ne sa, cioè tutto è possibile ormai. Ma com'è quella storia della lesbica, per tornare un po' a scherzare? Quella storia della lesbica, davvero? No, siccome io ho detto, perché la verità, poi era stata anche oggetto di una trasmissione televisiva, che c'era una giovane donna che aveva grossi problemi, gli aveva anche dato fuoco al marito, per cui io per alcuni mesi avevo preso l'impegno di pagare lo stipendio, sin quando poi non sarei riuscita a trovare un posto di lavoro, e la stessa cosa l'ho fatto con un'altra giovane donna. Allora per questo sono da processare? Per questo ho dato i soldi per avere in cambio favori sessuali, perché loro poi potessero ricambiare da un punto di vista sessuale? Era, ma voi sapete cosa sono le provocazioni? No, ma infatti era una provocazione, assolutamente. Senta, ma lei quando guarda la Boccassini a cosa pensa? Perché è così fissata col sesso, per esempio, con tutte queste storie di Berlusconi? No, pensa a cioè ha immagini di fronte alla Boccassini, a cosa pensa? Dove sono le femministe? Perché? Perché una donna che dice che tutte quelle ragazze che hanno varcato il cancello di Arcole sono delle puttane, capisce? Le femministe non sono in sorte. Penso al fatto che ha detto che Ruby raccoglie l'emblema, che è l'emblema della furbizia orientale, e mi sono chiesta dove sono gli orientali, dove sono, perché non parlano, qualcuno ha parlato, quello è un pregiudizio razziale. Però scusi, ma secondo lei c'ha qualche fissazione, c'ha qualche cosa, la signora Boccassini? Che ha una fissazione nei confronti di Berlusconi, sono 20 anni ed è evidente che abbia una fissazione. Poi io non giudico i comportamenti sessuali della signora, non li conosco e non li voglio nemmeno conoscere, perché non mi interessa. No, per carità. Mi interessa molto che invece sprechi i nostri soldi, che usi la giustizia come sentenza politica, ma sa, d'altra parte, quando l'altro giorno ho visto la guerra, Groia, che era alla FIOM ed era in mezzo ai lavoratori. Sì, quello effettivamente, Parenzo, anche quello, tu che sei un... No, ma io le dico da lavoratore, ma per Groia uno che si era messo in aspettativa. Vabbè, quello secondo la legge, però, secondo la legge. Ma non è andato, è tornato a lavorare da Otta, si è messo in ferri il giorno dopo. Noi siamo in un momento dove la crisi fa male, morde le aziende, i lavoratori, e non li hanno sputato in faccia quei lavoratori, che in Groia è l'esempio di come non deve comportarsi. Ah, perché scusi, uno che sta in aspettativa per mesi, pagato lo stesso dallo Stato che siamo noi, sì, va da Aosta, il giorno stesso si mette in ferie. Cioè, devo sputare in faccia. È un bel modo di produttività, è un bel modo di produrre, è un bel esempio per i nostri figli far vedere che un servitore dello Stato così prende il suo impegno di lavoro. Devono sputarli in faccia. Ma perché non dai, c'è andata ma anche Parenzo, lei? Topolino, Parenzo, siamo seri. Ma scusi, Topolona Santanchè, non ho capito perché non c'è andata. Non vorrei ingoiarla di un sol boccone. Signora Topolona Santanchè, non capisco perché non c'è andata anche lei tra gli operai della Fiomma. Guarda, io sarei molto meglio di Ingroia, perché se è una cosa che è certa, lavoro da sempre. Ingroia invece è molto tempo che non lavora. Guarda che Ingroia non guadagna lo stipendio medio degli italiani, 1300 euro. Ma perché non oggi, è andata anche lei alla Fiomma? Quello che stiamo soffrendo, un lavoratore che non guadagna 1200 euro al mese, ho capito, ognuno... manifestare con i lavoratori e il suo esempio è aspettative e ferie. Vergogna. Al di là ma di lei perché non c'è andata lei allora? Scusi? Lei andrebbe a cena con la Boccasini? A cena con la Boccasini? Sì. Ma no. Io non ho motivo di andare a cena con la Boccasini. Cioè è un personaggio interessante secondo lei oppure no? Oppure non è un personaggio particolarmente interessante? Ma guarda, io non ho tempo per andare a cena con nessuno e si figuri. Preferisco andare a cena con Sallusti. Quanto paga di IMU lei? Beh, lo sa quanto paga di IMU? Pago tanti soldi. Quanto? Lo sa esattamente? No, non lo so. Ma com'è che non lo sa mai nessuno? Manco io lo so. Ma no, ma io ho pagato... Di prima casa, quanto paga? Io veramente sono quella che ho il ravvedimento operoso, ma qualche migliaia di euro. Come, in che senso? Paga in ritardo? Ma, scusi? Il ravvedimento operoso è quando uno paga in ritardo, eh? No, lei lo sa che l'IMU prevedeva che sino a giugno no, si poteva avere il ravvedimento operoso pagando una cosa in più. Poi alla fine, ma credo che di pagare 4-5 mila euro. Di 4, dunque lei adesso di prima botta così risparmia 4-5 mila euro? No, io non le risparmio, siete mal informati, perché l'IMU su certe case di lusso e certe tipologie di case... Ah, la sua è di pregio? Di lusso? No, la prima, è prima casa. La prima casa, ma anche le prime case di una certa tipologia continuano a pagare l'IMU. Non lo so. Se è prevista questa no, la sospensione io. Di adesso. Beh, credo scusi, che riguardi quanti metri quadri è la sua casa? No, la sospensione, cioè sulle come era l'ICI, l'IMU si paga sulle case di pregio, diciamo così, e quindi si continua a pagare. La pagavo prima, la pago adesso, per me non c'è sospensione, continuerò a pagarla. Lo sai che disse una volta informati? No, no, ma io c'era una cosa sulle case di pregio che non era ancora da chiarire. Adesso poi nel decreto sicuramente ci saranno i dettagli. Ma guarda che lo trovo anche giusto, nel senso che in questo momento. Cioè, lei vuole continuare a pagare. Lei vuole continuare a pagare l'IMU? No, io trovo che sia una roba sbagliatissima. Beh, che la casa è sacra. Ma la sua casa, lei vuole continuare a pagare la sua IMU o no? In un momento in cui ci sono poche risorse, che siano quelli che ne hanno più bisogno. Beh, lei vuole continuare a pagare l'IMU? No, io non voglio continuare a pagare l'IMU perché è una cosa assolutamente sbagliata. Perché no, le sto rispondendo, non voglio assolutamente pagare l'IMU perché questa tassazione sulla casa è una cosa sbagliatissima. Vabbè, che d'accordo. Non si deve pagare sulla prima casa, sulle seconde case va benissimo, è tutto un altro discorso. Però la sua prima casa lei vuole continuare però, a pagarla? Però la prima casa, vedendo come il decreto, ci sono certi immobili in certe categorie che continuano a pagarsi, per cui e dunque lei è contenta di contenta no, di pagare? Non sono no, la sua prima casa è contenta no, di continuare? No, io non sono contenta. Beh, come non è pagarla. Contenta? No, se la devo pagare la pagherò, ma non sono contenta come principio, non sono contenta, perché l'equazione del benessere è sempre però la stessa. Pensa che sia giusto che lei meno che tasse ha una casa sulla molto famiglia, meno tasse sulle imprese, meno tasse sul lavoro. Vabbè, d'accordo, uguale più consumi, più produttività, più occupazione. Ma è vero se può mi deve rispondere sì o no, che se non verrà cancellata cade il governo, sì o no? Se non verrà cancellata l'IMU, cade il governo? Sì. Sì, ma non c'è questo presupposto, perché Letta è stato così chiaro nel suo Non c'è questo presupposto, ancora bisogna vedere, fino a agosto non è detto. Però è vero o no che cade il governo? Ma se io credo che non c'è questa ipotesi, perché già è stato che già gli italiani, grazie a noi, a giugno non pagano l'IMU. Vabbè, a giugno, poi bisogna vedere se non la pagano dopo. Brunetta ha detto cominciate a spendere quei soldi. Io ho detto guardi Brunetta, se davvero io comincio a spendere i soldi della prima rata dell'IMU e poi me la rimettete con i forconi. Guardi, se noi siamo il governo e siamo in governo insieme, stia certo li spenda quei soldi, perché l'IMU si possono spendere? Più. Si possono spendere. Parola certa, parola assolutamente. Certa. A presto, assolutamente. Grazie a voi. La Santa Alchè ha detto: sono lesbica e ormai non sa più che scusa inventarsi per non andare più a letto con Sallusti. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco, come una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho. Io voglio fare come fa la mia presidente Boldrini, e cioè settimanalmente con un minimo di buon senso naturalmente, denuncio 3-4 che mi insultano e mi minacciano. A proposito e lo ribadisco come grande atto di libertà. Denunciare quelli che insultano via Twitter, sarà d'accordo anche Parenzo, pensa che tristezza. Che tristezza. Ma lui no, sei d'accordo con Brunetta, ammettilo, sei d'accordo con Brunetta. No, ma lui, vuoi denunciare quello che ti insultano quelli che ti insultano su Twitter? Pensate come io sei messo. Io sono d'accordo, ma lui lo dice in modo ironico. Ma che ironico? Ma che ironico? Lo dice, ma che fa l'interpretazione delle parole di Brunetta? Lui denunciare tutti, è cretino, è il primo tra l'altro che va all'attacco sempre, provocato, e non fa nullone, cretino, non lavori, quell'altro gli fischia e ti denuncio. Ma dici, scusami, mi hai detto cretino, fa nullone, non lavori. È stupido, quell'altro lo risponde e denuncio. Lui così fa, non è che vabbè Grillo stracciate quella cazzo di tessera, sentite. Io ho detto ai giovani del PD: stracciate quella cazzo di tessera e venite dentro un movimento di cittadini. Cazzo, abbiamo le stesse idee: l'acqua pubblica, la scuola pubblica, la sanità pubblica. Abbiamo le stesse cose. Mandiamo via due mandati e via. Il Partito Democratico si è arrabbiato assai per questa cosa. Andrò anch'io in televisione, mi sono rotto i coglioni. Adesso ci attrezzeremo, andremo in televisione finalmente. Forse ci andrò anch'io in qualche televisione, perché io mi sono rotto i coglioni. Ma se è sempre in televisione, è rincorso dalle televisioni, anche questa cosa qui è una pantomima, non è vero che non è mai in televisione, è sempre in televisione, alle radio eccetera, perché lui fa i comizi, le televisioni riprendono e mettono nel circuito tutto quello che dice Grillo, dunque anche questa cosa qua è una stupidaggine. Il Papa è populista come noi, è una provocazione, non la prendete sul serio questa. Io ho fatto un omaggio a questo Papa, non potevo altro che omaggiarlo e riempirlo di affetto, perché è un Papa straordinario, è un Papa che ha detto che i problemi e la crisi qua vengono fuori sui giornali e sui media, i problemi delle banche, quando vanno in crisi le banche, ma i veri problemi sono la fame, la gente che si ammazza e le imprese che chiudono. Ha detto esattamente una parte del nostro programma. Allora io mi sono permesso di dire che il Papa è, come sono stati accusati, come siamo stati accusati noi, è un populista, perché lo amiamo così. Siamo qui, Luca da Prato, buonasera. Buonasera. Vada. Aspetta, io le volevo dire per il discorso di Brunetta, no? Come già lei ha detto, dice, se di spendere tutti i soldi, ha detto Brunetta, dell'IMU. Sì. Lei ha detto, dice, io andrò a Montecitorio o cercherò Brunetta per tirare. No, se poi mi rimettono la stessa tassa ho speso i soldi. Ecco, allora voglio dire, non si parla solo, Luciani. Facciamo una bella autobus e ci vengo anch'io. Vabbè, poi vedremo. Trovo un po' di persone, partiamo e andiamo. Poi vedremo, io inizio a spendere i soldi, come mi ha detto Brunetta, iniziate a spendere i soldi. A spenderli tranquillamente. Poi vediamo, se poi a settembre mi mettono una tassa e dunque sono costretto, ho speso quei soldi, ma in realtà l'IMU resta ecco. Oppure aumento, oppure la mettono sotto forma di un'altra tassa, ecco. Lo vado a cercare a casa. Allora, senso figurato, Va bene, Susani? Va bene, grazie. Carlo da Milano, buonasera, Carlo. Buonasera. Vada. Ascolti, una mia idea, cioè, ci ho pensato un po' sopra, sì. Per quanto riguarda l'ineleggibilità di Berlusconi, no? Sì. Ancora, che c'è da dire? No, ho pensato che se io fossi al posto di Berlusconi me ne fregherei altamente. Infatti se ne frega. È quello in che questo fa. No, ma in questo senso. Lui ha l'esempio di un grillo, che sì, è ineleggibile per una storia vecchia che ha avuto, eppure comanda dal di fuori un partito. Ah, lei dice se ne frega di stare in Parlamento, ma sa, c'è un piccolo dettaglio, che in Parlamento quando uno ha un mandato di arresto, un'indagine, bisogna passare per il Parlamento, dunque a Berlusconi interessa in realtà stare in Parlamento. Comunque, ho capito, ma... No, ma lei ha ragione, tant'è che a un certo punto l'avvocato Longo... Ma lei settimana... pensa che quasi 80 anni mettono in galera uno come Berlusconi per quelle cazzate che stanno facendo i tribunali? Ma non lo so, Carlo, questo non lo so. Penso proprio. E comunque, guardi, secondo me lui dal di fuori sì, potrebbe benissimo, anzi forse con più libertà, manovrare il suo partito. E si incapiterebbe bene tutti i comunisti. Vabbè, tutti i comunisti, ma compreso il signor Parenzo. Davide, risponda, per favore. Che mi è molto simpatico, però ha un difetto, è comunista. Ma quale comunista? È possibile che se uno ragiona con la propria testa e dice delle cose viene subito incasellato come comunista? Ma perché è così piccolo il suo, non il suo cervelletto, ma il suo ragionamento? Perché è così minuscolo? Mario da Bologna, buonasera. Buonasera, sono Strani. Vada. Allora, io volevo fare un appunto al democratico Parenzo, sì, in quanto lui si definisce democratico, ma penso che di democrazia, senza inventare niente, ce ne sono diverse nel mondo, e basterebbe cogliere gli spunti migliori, no, di queste democrazie. Una può essere quella dell'Australia, in merito all'immigrazione dei clandestini. No, e... mamma mia. Ah, sì, sì. Mi spieghi una cosa? Mamma mia. No, l'Australia. Un attimo solo. Arriva lui. Pronto? Sì, cercavo Corrado Biondino. Chi è? Mi scusi? Signor Biondino. No, ha sbagliato. Ok, grazie. Buonasera. Mario da Bologna. Mario, allora? Mario, Ciro da Modena. Pronto, buonasera Luciani. Sì, dica. Eccolo uno, sì. Buono. Lei. Buonasera Parenzo. Vai così che vai forte, Parenzo. Senti, Luciani, io te volevo chiedere una cosa, no? Ma sì, perché sono anni che ti sento. Sì. Non è una critica, ma una cosa che ogni volta che parli a Santanchè non ho mai visto rinfacciarla quella che lei pensava quando si è presentata alle elezioni. Ma gliel'abbiamo detto 40.000 volte, gliel'abbiamo detto 40.000 volte. E hai sbagliato, esatto, bravo, quando io ho detto non l'hai sentito. Quella volta proprio mi sono perso quella volta. Esatto, bravo, bravo. Adesso che la sento parlare, ma troppo a Berlusconi mi sembra che vuole fa tanto. Allora penso, dico, questo sarà passato. Sì, ma è una polemica che abbiamo già affrontato un sacco di volte, quando diceva che Berlusconi vuole le donne orizzontali, quando diceva eccetera eccetera. L'abbiamo già detto. Colori, adesso lo fa tanto. Esatto, bravo, bravo. Sarebbe suo figlio, io voglio vedere. Guardi, non sento niente. Sandro da Lucca, buonasera, Sandro. Buonasera. Dica. Io volevo dire, no, ma perché si parla ancora di queste cose, di Berlusconi, dei processi? Ho capito, ci sono i processi, fanno notizia, perché ma se ne parla? Se ne frega, ho capito, se vuole parlare di qualcos'altro, parla di qualcos'altro. Ma parliamo dei problemi reali del paese, cioè queste cose che ormai fanno gioco solo a Berlusconi, anche se lo condannano sicuramente troverà un modo per risultare vincente in questo. E qui l'unico problema che c'è è l'opposizione che si attacca a queste cose. Ma perché si deve attaccare a queste cose? Oddio, guardi, cosa vuole che le dica, Sandro? Guardi, anche Parenzo parla con la Santanchè, cioè, voglio dire, Santanchè, io per carità non condivido tanti dei suoi argomenti, però è una persona, insomma, tosta, con la testa. Non è che si può attaccare la Santanchè così su questi campi qui, che ormai... abbiamo detto, ridetto, ridetto, basta. Parliamo di altre cose, parliamo del lavoro, parliamo della cassa integrazione che continua a dare. Sì, ma chi parla del lavoro? Ma io se parlo del lavoro mi viene il latte alle ginocchia. Ma di che stiamo parlando, Sandro? Ma cosa dice Elena dalla provincia di Pavia? Mi faccia parlare con Elena. Sì, buonasera. Buonasera, sì, dica. In realtà avevo smesso da un po' da 10 minuti di ascoltarla, quindi non so bene, sì, la spiega che ha preso la vostra. Ma partita. Non c'è problema, lei intervenga, okay, su quello che vuole. Ma volevo dire che mi sembrava così, Daniele stasera con sì. La Santanchè sì. Che così volevo darle magari la possibilità di arrabbiarsi un po', visto che sì. Io mi faccio arrabbiare così. Su mi faccio arrabbiare non lo so. Siamo qui 800 24 00 24. Francesco da Grosseto, buonasera. Pronto? Chi è? Adesso risponde. Francesco. Sì, eccomi. Dica. Io ci sono. Sì, dica. Buonasera. No, volevo intervenire riguardo alla signora Santanchè. Sì. A parte sento un ritorno in cui... Vada, Francesco, vada. Telefono. La signora Santanchè, che secondo me è l'erede naturale di Almirante. In perché è veramente una donna eccezionale. È una bellissima donna. Ma che c'entra? Ma che c'entra con Almirante, scusi? Nel senso, cioè, me la figuro come sua erede naturale. Qualcuno ha tentato di farla diventare erede di Almirante, o comunque quando si era candidata per la destra, diciamo, non è andata male. Sì, a parte proprio come persona, come modo sì. di fare. Vabbè, a lei piace la Santanchè. Abbiamo registrato, grazie. Massimo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, le volevo fare una domanda. Sì. Rispetto a quel disgraziato delinquente che a Milano ha ammazzato tre persone, sì. Vorrei sapere perché lei, dopo averci detto che questo signore sì. era in attesa addirittura di un ricorso per avere la no, è rimasto in Italia perché nonostante il no alla richiesta perché? Di diritto d'asilo c'è sì. il ricorso, l'appello e dunque... Esatto, e quindi non era un clandestino. Un attimo, no, rimane sempre un clandestino perché è entrato clandestinamente. Ma... Allora Massimo? Allora, quel signore è un richiedente asilo e lei lo sa meglio di me, conosce la legge italiana e conosce anche la lingua italiana. Volevo sì. sapere se fa più figo dire che è un clandestino o se è più di moda dire che è un clandestino. Ma non è, il punto non è quello. Perché lei ha continuato ad ammorbarci per 10 giorni continuando a definire quella persona clandestino. Dicendo il falso, ma non è falsa la cosa, perché rimane quando uno entra clandestinamente e ancora il suo destino non è deciso, perché non è deciso, resta pur sempre un clandestino, ma non è importante che sia clandestino la definizione di clandestino. Quando uno arriva qui su un barcone e gli sì. diamo asilo politico, non è mai entrato clandestinamente in Italia, è entrato senza regolare permesso di soggiorno, ma o sbaglio? Chiede asilo politico, è entrato nell'attesa della risposta. Vabbè, ma lui non è un clandestino. No, e che cos'è? È un richiedente asilo. Un rifugiato richiedente asilo. Benissimo, allora decidiamo di chiamarlo richiedente asilo invece di clandestino. Allora, premesso che quello lì è un delinquente, un assassino, tutto, ma perché dire queste bugie? O non l'aveva capito, mi scusi. No, ma il problema non è questo. Cioè, lasciamo perdere i termini, clandestino o non clandestino. È entrato clandestinamente. Dunque, uno che è entrato clandestinamente si configura come clandestino. Dopodiché ha fatto richiesta di asilo. Occhio che così si rompe le unghie. Chi si rompe? Lei, ma ancora... così sugli specchi. Ma non c'era, unghie. Non mi devo arrampicare da nessuna parte. Sarà d'accordo? No, sarà d'accordo Parenzo con lei? Ma voglio dire. Parenzo potrebbe essere anche un po' più sveglio e dirglielo lui, Sì, come? Sì, ma... Parenzo poteva anche essere un po' più sveglio. No, Parenzo è bellissimo. Dopodiché l'ha già detto. Ah, l'ha già detto? No, guardi, io ho sentito diverse serie. Detto, dice non è clandestino, è uno che ha chiesto asilo politico, eccetera, eccetera. Non è mica la prima volta che lo dice. Ma non è importante, posso anche essere d'accordo con lei, ma pur sempre clandestinamente in Italia è entrato. Cioè non è quello il problema. Uno è entrato clandestinamente in Italia senza permesso di soggiorno, punto. Dopodiché poi possono entrare tutti, anche da paesi così, dicendo no, però da me ci sono quelli che fanno, c'è la tratta delle formiche. Bisogna poi vedere... Posso? Lei lo sa che logica? molti immigrati vengono protetti da alcuni avvocati, da alcune associazioni, denunciando le cose più incredibili. C'è una volta un ghanese a Bari, ma non me ne frega niente. Ma come non gliene frega niente? Che vuol dire? Non me ne frega. Eh? No, volevo chiedere semplicemente se una persona condannata in primo grado, sì, siccome è condannata, quando poi viene assolta in appello in Cassazione, lei lo continua a chiamare condannato? Ma io non ho detto che clandestino è un condannato, cioè io te sto no, semplicemente... ma lei sta dicendo che quel signore è un condannato. Ma perché condannato? Io non sto dicendo che è condannato. No, ma non sto dicendo che è condannato per niente. Sto dicendo. Il fatto che sia andato clandestinamente finché poi non viene espulso come clandestino non significa che è un clandestino. È entrato clandestinamente o no? Io questo intendevo. È entrato clandestinamente o no? Ah, lei? Sì, è entrato clandestinamente. Allora lei doveva dire che una persona è entrata clandestinamente in attesa di sì, così ci metto 20 minuti per dire chi è. È un clandestino. Allora, è uno bello, è che è entrato clandestinamente. È un clandestino. Ma okay, non è che do allora, questa parola un'accezione di criminale. Sto dicendo è un clandestino che poi ha chiesto asilo politico. Va bene? Così, questo ha un'accezione criminale. No, io no. Secondo me, no. No, secondo la nostra legge, sì, però. È un reato. Sto dicendo semplicemente è uno clandestino che poi ha fatto richiesta di asilo. Va bene così? Sì, mi sembra avrebbe fatto quindi, più ma è la stessa cosa. Perché, guardi che è la stessa niente, cosa guarda. Che ho detto, è la stessa cosa. No. Sì, sì. Si ascolti. Ma no, sì, ma ho capito, ma non è che la radio stiamo qui a spaccare il capello su ogni cosa, cioè c'è anche ma una lei c'è lei anche ha una detto sintesi. La parola clandestino. Ma ho clandestino, certo, la riconfermo, certo. Certo, clandestino è entrato clandestinamente, poi ha fatto richiesta di asilo politico. Questa richiesta è stata bocciata, successivamente ha fatto ricorso, ho spiegato tutto il tragitto, guardi. Benissimo, ma io ho spiegato tutto il tragitto. Non io si preoccupi. Non posso dire che Berlusconi è condannato perché è stato condannato in primo ma grado. Ma non c'entra niente la però condanna. Lo è stato. No, vabbè. Ma lo è stato. Come lui è stato clandestino, quell'altro è stato condannato. Ma io non posso continuare a chiamarlo condannato. Vabbè, guardi, se le sta simpatico questo qua che ha ammazzato tre persone con la le ho detto colpi che è un accetta... delinquente. Allora? Le ho detto che è un delinquente assassino. E allora, punto. Io dico semplicemente che dire clandestino per far sembrare che tutti i clandestini sono i delinquenti. No, ma questo lo dice lei, io no, non... No, no, questo è quello che sottintendo. No, no, ma lei si sbaglia. Secondo me, io non ho detto così, io ho detto è un clandestino che è entrato, un clandestino. Clandestino. Ho sempre aggiunto un clandestino che è entrato, una persona che è entrata clandestinamente, successivamente ha chiesto asilo politico che è stato respinto, e adesso ha fatto ricorso e poi ha un cursus, un piccolo cursus da criminale, piccolo, non è che ha ammazzato nessuno fino a quando non ha ammazzato tre persone. Però diciamo... che non aveva proprio un cursus honorum in Italia particolarmente brillante, Ma non c'entra. No, assolutamente non c'entra niente. No, non c'entra, per me questo è un assassino. Per me questo è un assassino. No, ma prima, voglio dire, prima. Ma se prima. Cioè, secondo lei, no, ma scusi un attimo, secondo lei, uno che entra in Italia clandestinamente, successivamente compie anche dei reati, per cui è stato tra quelli che hanno fatto una rivolta in un centro per gli immigrati. Secondo lei va tenuto in Italia? Uno che compie qualsiasi reato entra in Italia. Secondo me la legge va applicata. Ma che vuol dire? Lasci per la legge può anche essere sbagliata la legge. Abbiamo delle leggi stupide che dobbiamo, ecco, bravo, dobbiamo io quello volevo dire. Ok. Quello volevo se abbiamo dire. Delle leggi stupide benissimo, dobbiamo cambiare. Ed è responsabilità dei politici che non le cambiano, esattamente. Bravo. Sono d'accordo con lei, però esiste questo problema o non esiste? Io questo volevo dire, esiste o no? Il problema di uno che è entrato clandestinamente, che poi ha fatto richiesta di asilo politico, che è stata bocciata e successivamente ha commesso dei reati e resta in Italia, esiste o no? Non esiste come problema. Il problema di chi commette reati, c'è uno che è nato in Italia, che ammazza o rompe la milza alla fidanzata o alla moglie o chi sia, o che sia un clandestino, per me il problema è chi commette il reato, non è la sua situazione, la sua condizione non c'entra niente. Vabbè. Okay. Va bene, grazie. Ida, provincia di Brescia, buonasera. Ma è chiaro, ma è così. Volevo chiedere una cosa. Sì. Come mai il senatore Rita Agnelli, che insomma si sapeva che era cocainomane e comunque aveva uno stile di vita che certo non era nella normale moralità di tutti, e Berlusconi invece no, senatore Rita no, come mai Agnelli in fondo... non era una persona così scusi, che cosa, no? Che cosa ha detto di Agnelli lei? Agnelli aveva dei problemi con la cocaina. Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Sui giornali c'era scritto. Sui giornali, non è che ha mai confessato di essere uno cocainomane, scusi. No, cioè, sono però, sempre state indiscrezioni. Sono sempre state indiscrezioni. Indiscrezioni, però sui giornali sono state scritte, mi ricordo degli articoli. Ma su adesso oggi. Io, francamente, forse post mortem, mentre. Esatto. Infatti, nessuno ha detto mai niente quando era in vita, si è saputo dopo. No, magari era anche ipocrita che qualcuno non lo scrivesse, non lo so, anche perché in questi casi sa o c'è la prova provata, o c'è una cura, o c'è una confessione, oppure è difficile dire quello è cocainomane, no? Berlusconi, ma neanche su Berlusconi. Beh, su Berlusconi diciamo che c'è. Prove provate, no? No, ma si può discutere di tutto, perché. Però, scusi, c'è una differenza fondamentale. Sì. Sì, fermo, ammesso e non concesso che quello che lei dice non è vero. Non ci sono le denunce, lei dice. No, ma c'è una differenza fondamentale. Sì. Cioè, ammesso e non concesso che quello che lei dice è vero e sono fattacci dell'avvocato. Sì, certo. Così, no, ma voglio dire, quello se l'ha fatto sul suo corpo per uso personale, non so se l'ha fatto, e chi se ne no, frega. No, ma lei, la signora dice... parla di stili di vita, se lo stile... No, stile di vita. Ma non si sta processando nessuno stile di vita di Berlusconi, lo capite o no? Quando industriali, mi scusi, quando erano industriali potevano al massimo avere 40 giorni di cassa integrazione, Agnelli aveva un anno, due anni, diciamo che era un po' favorito, non è che erano cose che dice? Vabbè, sono cose diverse, no? Lei, la signora, si sta riferendo alla frase pronunciata dal senatore Zanda l'altro giorno, quando dicendo lo stile di vita di Berlusconi non è adatto, non lo rende degno di fare il senatore a vita, di questo parla. Allora, c'è qualcuno che dice ci sono stati altri senatori a vita che avevano, secondo alcuni criteri, uno stile di vita non adatto alla loro nomina. Si è fatto l'esempio del senatore Colombo, qui da noi Paolo Liguori, la signora adesso tira in ballo il senatore Agnelli. Sono casi molto diversi. Siamo qui, Giampiero dalla provincia di Firenze. Buonasera, Giampiero dalla provincia di Firenze. Buonasera, sì, senta, io avrei una domanda per il signor Parenzo, no? A proposito del caso Cabobo, l'assassino canese. Ecco, volevo chiedere, siccome la posizione del signor Parenzo mi sembra un po' bonista, no? Nei suoi confronti. Un attimo. Ma che bonista, ma... Pronto? Pronto, buonasera, sono Cruciani, la Zanzara. Sì, buonasera. La disturbo? Beh, è ora di cena, però... Lo so, 5 minuti, ci regali 5 minuti. Che ha combinato con questo manifesto? Ma io non ho combinato niente. La possibilità che si parlasse un po' di problemi che ci sono negli enti locali e gli amministratori. Però scusi, Biondino, come si fa a fare quella specie di cosa su Facebook, su internet, non so, in cui c'è scritto non ti verrebbe voglia di prenderli a picconate il sindaco di San Giuliano, il sindaco di Milano? Insomma, mi pare che la parola picconate in questi giorni significhi qualcosa di ben preciso, no? Nella storia la parola picconata ha avuto sempre un significato, maggiormente sotto l'aspetto politico. Cossiga, come Presidente della Repubblica, dai compagni era sempre attaccato con questo tipo di parola picconata. Ma lei, scusi, Biondino, scusi un attimo, lei ha il viva voce per caso? Sì, ho il viva voce. Perché si sente malissimo, ci perdoni, se lo toglie ci fa una cortesia, 2 minuti poi la lascia. Ecco qua. Lo tolgo. Ecco qua. Grazie. Ma è di cattivo gusto. Beh, insomma, la parola picconate, certo, lei dice la riferisco a Cossiga, d'accordo, però è chiaro che lei si riferisce all'episodio di Cabobo e alle picconate che ha dato ammazzando tre persone. Ma questa è un'illusione che di solito i sinistroidi presenti nella nostra provincia e nel nostro comune hanno sempre l'abitudine di collegare le vicende anche locali e casi nazionali, cioè ma scusi, perché lei ha usato la parola picconi? Picconate, perché riferendosi a Cossiga, non credo. Scusi. Era la parola che poteva attirare più attenzione in questo momento. Però se lei mi lascia un po' discuterne un po', io le posso spiegare. Per carità, siamo qui per questo, non è che siamo qui per altro. Cioè, quando lei scrive non ti verrebbe voglia di prenderli a picconate, a cosa si riferisce? Allora, io le dico una cosa. Io abito in una città che si chiama San Giuliano Milanese. Sì. Dove il Partito Democratico è riuscito a fare un danno di 100 milioni di euro e mai nessuno ne ha parlato, compreso la Zanzara, compreso i tribunali dove io ho fatto svariati e sporchi denunce, compreso i tribunali e guardie di finanza. E corte dei conti. Vabbè, d'accordo, secondo lei ha amministrato il Partito Democratico, ha amministrato male. Vabbè, d'accordo, quella è la sua opinione legittima. Non è la mia opinione legittima. È sopportato il documento. Vabbè, d'accordo, però adesso non possiamo discutere di questo perché io non ho la possibilità di discutere di quello che succede a San Giuliano Milanese. Va benissimo, lei avrà le sue ragioni, dopodiché che c'entrano le picconate? Allora, mi sembra giusto invitare i cittadini a picconare su problemi riguardanti la sicurezza picconare su argomenti che riguardano la sanità, sì, picconare su argomenti che riguardano la legalità in generale, sì, mi sembra un invito legittimo da chi fa politica. No, però scusi, poi, quando lei utilizza la parola dietro questo messaggio, sì, se si vuole dare la lettura, la chiave di lettura, che è il caso mi guarda, che ne parlerete ancora per qualche altro giorno e poi sarà, andrà nel dimenticatoio finché un altro folle ammazzerà altri liberi cittadini. Ma perché secondo lei Pisapia ha qualche responsabilità? Ma io in Pisapia non travedo una responsabilità oggettiva e sostanziale nei suoi confronti, tantomeno soggettiva. E allora perché lo cita? Io nei confronti di Pisapia vedo la responsabilità di voler sempre drammatizzare, ma non Pisapia è il parafulmine di un sistema di sinistra, del buonismo di sinistra. Scusi, lei poi, a Cabobo che cosa farebbe oggi? Ma io a Cabobo oggi non gli farei niente, io lo farei curare finché almeno ammettesse che quello che ha fatto l'ha fatto veramente perché non era lucido o non era cioè ci vuole la pena di morte, ci vuole la pena di morte secondo lei? Ma questo lo dice lei, io non no, una domanda, le faccio una domanda. Ma la zanzara la conosciamo bene, la zanzara punge dove non deve pungere. Ma come punge dove non deve pungere? Cosa vuole? Vuole che devo dire che vuole lo no, contento. È una domanda. È una domanda. Se lei vuole dare la pena di morte, lo propone. Ma chi vuole dare la pena di morte? Io, è una domanda che le faccio. Io non sono per la pena di morte. E vabbè, lei ha risposto. Lei è per la pena di morte. Ma no, assolutamente. Per la pena di morte mi fa piacere che lei vuole la pena no, di morte. No, però, Biondino, no, io non sono d'accordo. Però, con la pena di morte. Però va benissimo quello che lei dice. Il punto fondamentale è un altro. Lei dice che a San Giuliano e a Milano ci sono cose che non vanno, la colpa è della sinistra, eccetera, eccetera. Va benissimo, dopodiché è l'utilizzo della parola, se lei avesse fatto un manifesto è l'utilizzo della parola picconate. Ma se io dicevo la martellata, in questo momento penso che lei stasera alle 8 di sera mi chiamava per chiedere spiegazioni sulla martellata. Io la picconata la intendo come... Cioè è una provocazione fatta apposta per... Eh sì che la provocazione. Lei sta dando la possibilità. Nessuno. Lei stasera mi sta dando la possibilità di parlare che a San Giuliano la sinistra in un'eterna gestione sempre da parte loro ha creato dei guai. Ma il suo partito, il suo partito dice chieda scusa. Questo oggi è scritto. Il mio partito quando mi convocherà ne parleremo con il mio partito quello che succederà. Lei non si pente di aver scritto picconate. Ma il mio partito adesso ha sentito soltanto la versione dei sinistroidi in consiglio comunale a Milano. Quando sentirà la mia opinione e capirà qual è la mia posizione. Però lei non si pente di aver scritto picconate? No, ma la picconata dipende da uno che peso dà la picconata. La picconata è come la martellata o come la fucilata. Non è una cosa da poco. Vabbè, grazie Biondino, l'abbraccio. Salve. Voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.